risveglio, atteso o inatteso, un battito acciaioso sarà il mio. O no? Sarà il suo? O no? Sia il suo. Tutto è nero, tranne il tuo cuore. Sorriso, sorriso e fuga. Sguardo confiscato al desiderio, sincerità profuga, un paese che io non conosco, quasi uno specchio riflesso, e in fondo la tua solitudine, radici avvinghiate alla base di un carro, movimento silenzioso, presenza discreta e osservazione delicata. Scende la lacrima che al tuo volto, vergognoso di bellezza. Sveglio, atteso o inatteso, un battito acciaioso sarà il mio. O no? Sarà il suo? O no? Sia il suo. Non so il nostro. Thank you.